La società che gestisce l'acqua qua nel Fiorentino, che si chiama Publiacqua, era composta per un 60% dai soci pubblici, i comuni sostanzialmente, e un 40% in una società che comprendeva delle realtà private, con un percorso politico molto difficoltoso, in cui la sinistra, Alleanza Verdi Sinistra, ma comunque amministrazioni piccatamente di sinistra, che fortunatamente qua sul territorio ce ne sono e come, hanno iniziato un percorso, ripeto, molto difficile qualche anno fa per provare a tornare a una pubblicità dell'acqua al 100%, pertanto serviva riacquistare le quote del privato e quindi da questo era nato un contenzioso tra il privato e i soci pubblici, che è concluso ieri con la sentenza del tribunale, che ha dato fortunatamente ragione ai soci pubblici e quindi ha obbligato sostanzialmente a vendere le quote private al pubblico, la società appunto privata. Il tema era questo: il privato non voleva uscire dalla gestione dell'acqua pubblica sostanzialmente. Tra l'altro la sentenza dispone neanche la restituzione da parte del privato di dividendi ingiustamente percepiti, quindi insomma una sorta di profitti sull'acqua. Esattamente, c'è anche questo aspetto che dobbiamo comunque approfondire, perché davvero la sentenza è di ieri, però c'è questo aspetto qua, sì, e obbliga il privato a vendere entro 30 giorni, quindi i tempi sono davvero stretti, fortunatamente si può iniziare un percorso nuovo perché ce n'è davvero un gran bisogno. Pacia ha già annunciato che, come dire, però impugnerà questa sentenza, quindi insomma forse non sarà così breve. Esatto, ce l'aspettavamo senza dubbio, però siamo anche fiduciosi che insomma dopo il primo grado ci possa essere una conferma nei gradi successivi e davvero possa cominciare questo percorso politico che aspettiamo quantomeno dal 2011, dal referendum, ma che riteniamo veramente importante, anche perché, mi permetto di dire una cosa, è davvero l'ora che i comuni, i soci pubblici svolgano un ruolo importante e che si metta mano innanzitutto alle tariffe che sono troppo alte e che si dica basta al profitto sui beni pubblici in generale, soprattutto sull'acqua, che è il bene pubblico per antonomasia. Ecco, siccome lo hai citato, ti faccio la domanda esplicita: appunto, il referendum del 2011, vinto da chi chiedeva di non avere, come dire, i profitti sull'acqua, poi in parte disatteso, il vostro percorso nasce proprio per dare un seguito pieno a quel responso referendario? Sì, nasce per dare veramente un senso alla politica, perché se poi grandi masse si recano al seggio per votare fortemente una direzione e poi si vede che la politica, per ragioni sicuramente tecniche, amministrative, poi quella linea lì non la prende mai, è evidente che c'è un allontanamento delle persone, del cittadino, della cittadina dalla politica. E quindi io credo sia compito della politica, se vuole anche riacquisire un po' di credibilità e fare cose concrete che poi abbiano davvero un'impronta nella vita quotidiana, bisogna ripartire da questo, quindi da un volere cittadino importante, quello fu davvero importante, e provare in tutte le forme possibili arrivare a questa soluzione. È molto difficile, però la politica deve essere anche questo, deve ambire anche all'impossibile, come diceva qualcuno più importante di me. Sinistra Italiana, insomma, e AVS sappiamo che sono sempre stati per questa posizione. Le altre forze politiche rispetto alla ripubblicizzazione dell'acqua, avete trovato collaborazione? È molto interessante questo discorso, perché qui a Firenze si dice, è un termine poco politico, si dice ci davano di grulli, nel senso che sembrava un percorso politico impossibile, quello che poi ha tracciato l'ex sindaco di Sesto Fiorentino di Sinistra Italiana Lorenzo Falchi, che ora è consigliere regionale, quando ha provato a mettere insieme tante amministrazioni piccole soprattutto su questa tematica qui, quindi discorso multi-utility, ma una multi-utility innanzitutto non quotata in borsa, e anche questa è stata una vittoria politica di AVS importante, determinante, perché le condizioni politiche inizialmente erano completamente diverse. Però consiglio comunale dopo consiglio comunale abbiamo portato mozioni, ordini del giorno per escludere la quotazione in borsa e quindi il profitto del privato dalla multi-utility, ci siamo sostanzialmente riusciti, e poi si è aperta tutta questa questione sull'acqua pubblica, dove sinceramente abbiamo trovato all'inizio un po' di difficoltà, poi anche il Partito Democratico in grandissima parte è arrivato sulle nostre posizioni con un percorso legittimo, importante, che hanno fatto anche grazie a posizioni della nuova segretaria Schlein, ovviamente proiettate sul territorio, e siamo arrivati quindi anche a una visione univoca su questo tema qui, che era molto complesso, serviva davvero un lavoro politico importante che c'è stato e che finalmente dà un senso alla politica e alla sinistra.